Vendo tutto di Matteo Caccia. Ci sono cose che vendi e di cui ti dimentichi appena le hai date via. Ce ne sono altre invece che hanno, anche se non le usi più, anche se non le vedi più in casa tutti i giorni, ti rimangono attaccate addosso come un cattivo profumo. Queste sono le cose che voglio vendere più in fretta. Ecco perché non mi fermo e continuo. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato, dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un paio di cuffie semiprofessionali. Sono le 16.08, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, il programma è Vendo Tutto, vendotutto@radio24.it oppure 800 20. Faccio il bravo conduttore oggi. Apriamo dando tutti i numeri di riferimento. Vendo tutto, @radio24.it oppure 800 24 0024 per chiamare in diretta. Gli sms 349 238 6666. Perché oggi si parla di un paio di cuffie HG, ma non si parla solo di un paio di cuffie HG. Oggi sarà una sorta di chiacchierata tra di noi per sfogarvi di quelle cose che alla vostra compagna, al vostro compagno, a vostro marito, a vostra moglie non potete dire. Perché parliamo degli amici, dei nostri, nel caso mio, ex partner, nel caso vostro, dei vostri attuali partner. Cerco di farmi capire con esattezza. Queste cuffie me le ha regalate gli amici della mia ex fidanzata. Erano degli imbecilli, lo diciamo proprio serenamente. Erano degli imbecilli quei suoi amici, però non è che potessi fare a meno di uscire, perché erano amici suoi, e quindi un po' con gli amici miei, un po' con gli amici tuoi. Era sempre soprattutto un po' con gli amici suoi, devo dire la verità. Però era anche un po' colpa mia. Voi però non potete dirlo a vostra moglie, a vostro marito, che quei due sono noiosi come la morte, oppure che quando uscite con gli amici suoi al ristorante urlano, danno fastidio, voi siete in imbarazzo, voi vi trovate, avete presente quella faccia, tipo come se avete avuto un emiparesi per tutta la sera, no? E tutta la sera, che simpatico, sì, guarda, hai proprio ragione, e vorresti solo essere in un altro posto o sprofondare lì sotto. Non potete dirlo a lei, ma potete dirlo oggi, in diretta a tutta la nazione, all'800 24 0024, oppure al 349 238 6666. Facciamo un patto: io oggi vi do totale riservatezza, non dico il vostro nome, quindi voi potete veramente, siete veramente in incognita. Facciamo così, che stabiliamo sin da subito, l'ha suggerito un ascoltatore prima sulla pagina Facebook e quindi io seguo il suo consiglio. Il nome di copertura oggi per tutti è Roberto. Roberto per lui, Roberta per lei, ovviamente. 800 24 0024, perché è arrivato il momento di dirglielo. Magari vostra moglie, vostro marito non è all'ascolto, anzi spero proprio che non lo sia per voi, però voi non ce la fate più di tenervi dentro quella roba su quegli amici che non sopportate. Magari anche stasera o nel weekend, oddio, non voglio neanche pensarci. Avete presente i weekend che stai via da venerdì a domenica con gli amici suoi, di lei o gli amici suoi, di lui? Avete la possibilità di confessarlo e di ammetterlo, ma soprattutto di sfogarvi. 800 24 0024, 349 238 6666. Io lo faccio a modo mio, raccontandovi le storie delle mie cuffie HG. Voi lo fate a modo vostro, chiamando l'800 24 0024. Veniamo quindi alle cuffie e alla storia di quegli amici insopportabili. Per vederle, radio24.it. Per sentirne la storia, eccoci qui. Le cuffie. Cuffie modello K518 DJ, marca HG. Cuffie chiuse semiprofessionali sovraurali, dotate di padiglioni isolanti che attenuano i rumori circostanti, estremamente robuste. Esclusivo meccanismo di piegatura 3D Axis, livello di pressione sonora elevato, peso 150 grammi, lunghezza cavo 2,50 m. Perfette per chi voglia iniziare a fare il DJ o chi voglia ascoltare la musica senza disturbi esterni. Valore commerciale 55 euro, base d'asta Vendo Tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Le cuffie HG semiprofessionali che vendo oggi sono un regalo di compleanno che 2 anni fa mi sono fatto. Me lo sono fatto perché me lo meritavo. Avevo appena passato un periodo difficile sul lavoro e sentivo di meritarmi qualcosa di bello. E per me queste cuffie sono qualcosa di bello. Si tratta del genere di cuffie che si usano in radio, oppure per ascoltare la musica alla qualità più alta, però. Perché sono chiuse e non lasciano passare nessun rumore dall'esterno. Tra l'altro, negli ultimi tempi ho visto certi ragazzini dalla faccia poco sveglia che si aggirano per la città con in testa queste cuffie. Non lo so, credo sia diventata una moda. A me però servivano per sentire la musica del computer, oppure del mio iPod, senza dover usare gli auricolari, che tutti si infilano nelle orecchie ma che nessuno mi convincerà che davvero possono essere comodi. Per lavoro sto molto spesso con le cuffie sulla testa, sono una specie di attrezzo del mestiere per me. Quando Giulia mi ha visto tornare a casa con quelle cuffie il giorno del mio compleanno, mi ha detto: ma chi te le ha regalate? Ma che sciocchezza, è come regalare un trapano a un dentista. È chiaro che ce l'ha già nel suo studio. Io allora le dissi che me le ero regalate da me per sentire la mia musica, perché in fondo la musica va sentita bene, no? Altrimenti rimane solo in sottofondo, tipo in ascensore. Ma perché tra l'altro la musica in ascensore mi fa impazzire, quando la trovo ogni volta vado in estasi. E poi, come mi ha detto il commesso che me le stava rifilando fregandosi le mani, le AKG sono le Ferrari delle cuffie. È un po' come possedere una pietra preziosa. E quella sera, infatti, con la sensazione di avere una specie di diamante tra le mani, mi sono seduto davanti al PC e mi stavo preparando a festeggiare il mio compleanno a casa, tranquillo, con Giulia, potendo ascoltare la mia musica preferita con le mie cuffie preferite. Quando lei mi disse che quella sera aveva organizzato una festa per me ed era ora di vestirsi perché tra poco bisognava uscire. Ora, che la tua ragazza ti organizzi una festa per il tuo compleanno è pure commovente, però che te lo dica la sera stessa lo è un po' meno. E se poi oltretutto scopri che la festa in realtà è il solito ritrovo dei suoi amici, che il venerdì sera si incontrano in un ristorante fuori città vicino a una cava, beh, in quel caso possono girare anche un po' i maroni, no? Io volevo solo rimanere a casa tranquillo, mangiare una cioccolata con la mia ragazza. E poi i suoi amici mi stanno veramente sulle palle. Insomma, questo gioiello che mi ero comprato e portato a casa per celebrare il passaggio di un altro anno proprio, non me lo potevo godere. Sorrisi e le dissi: grazie Giulia, che cosa carina. E io che pensavo di rimanere in casa senza nemmeno festeggiare. Sono proprio fortunato. Entriamo da Marcella. Marcella è il nome della proprietaria del locale e quindi anche del locale stesso, per via di una figura retorica di cui adesso non ricordo il nome. Vabbè, comunque. Entrati da Marcella sento subito sta puzza di umido e di trota. Però in giro ci sono dei festoni sul soffitto. L'insieme è orribile, ovviamente. E io aspetto solo che esca qualcuno vestito da pagliaccio ad aggravare la situazione. Tutti gli amici di Giulia sapevano che lavoravo in radio e non perdevano mai l'occasione per chiedermi ogni volta: ma com'è Linus di persona? Ora, che è un po' come chiedere a un benzinaio di Piazzale d'Ateo che tipo è il proprietario della pompa di benzina di Piazzale Lotto. Io dicevo sempre che era una persona per bene anche se non lo conoscevo e loro: sì, effettivamente si sente della radio, Ma si sente cosa della radio? Niente, era incredibile. Il Gigi, la Stefi, il Ludo e la Vale mi facevano sempre solo domande deficienti. Tipo: ma scusa una cosa, se ti scappa la pipì mentre sei in diretta, come fai? Oppure, peggio ancora: ma Matteo, non metti mai la musica all'Hollywood? Ragazzi, faccio il conduttore, non faccio il disc jockey, non è proprio la stessa cosa. No, niente da fare. Ma torniamo con la sera. Marcella è accogliente come sempre, mi dà un buffetto sul viso con quelle mani con le unghie sporche che se penso che ci impasta gli gnocchi mi viene male. E lì capisco che tutta la serata sta per prendere una piega peggiore di quella che temevo. Mi fa gli auguri, io la ringrazio, anche se penso che schifo. E Giulia è già persa via a parlare del suo lavoro, di tutti i suoi problemi in giro per la sala. Sala che dopo una mangiata indecente diventa una pista da ballo. Ah, ecco perché ovviamente dopo cena la Franci aveva portato una piccola console. E proprio quando stava arrivando la torta per me, il Ludovico mi dà un regalo a nome di tutti. Cosa che sulle prime mi sorprende e mi fa pure piacere. Poi però lo apro e scopro che il regalo è la stessa cuffia AKG che mi ero appena regalato. La Vale mi guarda e mi dice: ehi coccoluto, adesso che hai anche le cuffione, sparaci qualche remix. Ecco lì avrei voluto toglierli tutti dalla mia lista di amici di Facebook. Avrei voluto chiedere a Giulia come le fosse venuto in mente che mi sarebbe potuta piacere una serata come quella. Però lì ho capito che a lei non interessava molto il mio compleanno. Aveva avuto una settimana difficile col suo capo ufficio e voleva per forza parlarne con le sue amiche, quindi eravamo lì. E allora pago la mia tassa e metto le cuffie. Metto le cuffie e guardo intensamente questa console mentre tutti gli altri mi fissano aspettando che io ovviamente metta su della musica. Io non so da che parte si cominci. Poi vedo una pila di CD, ne apro uno a caso, lo metto su, schiaccio play, alzo un paio di levette prima di capire qual è quella giusta, cioè quella per il volume, e la musica comincia a sparare. È assolutamente casuale, è pure inappropriata, ma come sempre funziona, perché la musica è più potente delle parole. E allora metto un altro CD sul piatto e mi preparo a mixare, che non so cosa significhi, ma che mi pare che si faccia tirando giù una lavetta e alzando l'altro. Duro mezz'ora, poi lascio un CD andare avanti da solo, tanto nessuno se ne accorge più. E la serata, miracolosamente, passa. Le ho dimenticate da Marcella le mie cuffie AKG regalate da quelli lì. Forse perché sapevo che a casa mi aspettavano le mie cuffie comprate da me. E non mi sono nemmeno preoccupato di cosa avrebbe pensato Giulia. Solo a notte fonda, poi, con le mie cuffie nuove e profumate, ho potuto ascoltare quello che io davvero volevo ascoltare. E mi sono rimesso in pace con tutto. Perfino col fatto che avevo un anno in più del giorno prima. Eppure, nonostante tutto, nonostante la musica senza rumori esterni e il sapersi fare dei regali, queste cuffie sono in vendita. Il loro valore è di 55 euro, la base d'asta 99 centesimi. Se volete sfogarvi riguardo agli amici insopportabili di vostra moglie, marito, fidanzato o fidanzato, 80024 0024. Io non l'avevo mai fatto, lo ammetto, e lo faccio adesso alle 16.21 in diretta, confessarmi e sfogare quanto non sopportassi gli amici della mia ex, ma vi chiedo di farlo. E tra l'altro un messaggio su tutti, sì, posso chiamarlo Roberto, facciamo Roberto da Milano, diventiamo dei servi della gleba. Ale, 80024 0024, sentiamo chiaramente, nome in codice, Roberto da Milano, pronto? Eccomi qua. Eccoti qua, come stai Roberto? Molto bene, grazie. Tutto a posto? Una bellissima giornata. Benissimo. E questo ti solleva da quegli amici? Da quell'amica. Amica, sì, perfetto. No, qua è un caso veramente patologico, una cosa allucinante. Cioè? Prima estate dopo il matrimonio, pochi mesi dopo il matrimonio, 5 mesi dopo. Sì. Quindi a giugno, bellissima vacanza sulle Dolomiti, stupenda, meravigliosa. Ma sai, pensavo di portare la mia amica... Luigia, la chiamiamo. Luigia mi piace. Sì, Luigia, va bene. No, perché è un nome che non mi piace, quindi. Ok, ok. Di portare Luigia, viene con noi, sai, è un po' più anziana di noi, un po' sfigatella, cianuroso, non c'è qui, non ce l'ha. Poverina, poveretta, ce la siamo portati sia nel viaggio in macchina, in tutte le gite sulle Dolomiti, e mi prendevo la mia bella mountain bike e me ne andavo da solo perché a un certo punto. Ma scusa, però non era il viaggio di nozze questo, hai detto era 5 mesi dopo. Ci mancava anche quello. Ma è ancora in mezzo, ai piedi questa Luigia, oppure? Assolutamente sì, assolutamente sì, è un'amica di famiglia, sai, non si possono mollare le amiche di famiglia. Ma tu non hai... Questa qua non l'ho mai capita, ma comunque... Non hai mai parlato con lei, con tua moglie, intendo dire? Sì, sì, vabbè, ma guarda, l'importante è ignorarla, non la moglie ovviamente, ma l'amica. Ovvio. Cioè, quante volte a settimana te la trovi in casa? Ultimamente sempre di meno, perché ho usato essendoci il figlio, ovviamente le attenzioni magari sono un po' più dirette da un'altra parte. Ah, ok. Ovviamente. Ma guarda, ci fermiamo perché stiamo andando troppi dettagli e non vorrei il figlio, la moglie, Milano, non vorrei che risalisse al tuo nome. Sono sicuro che non sono in diretta, ascoltando la radio. Benissimo. Che lavoro fai? A questo punto chiediamo che lavoro fai, sì. Faccio il musicista, guarda, ti piace? Cosa suoni? Suono il basso. Ma in un... non vado ancora più nel dettaglio. Sì, infatti, a questo punto va bene così. Caro Roberto, ti ringrazio, buona giornata. Ciao. È contento Roberto, sei liberato. Ragazzi, 80024 0024, per liberarvi di quei gatti attaccati degli amici dei vostri compagni. Ancora Roberto da Milano, pronto? Pronto, ciao. Ciao, come va? Bene. Bene, io abbastanza bene. Okay. Andiamo subito a che cos'è, un amico, un gruppo di amici? Purtroppo è la migliore amica della mia ragazza. Ok, perfetto. Che cosa fa? La odio, detto... Ah, la odi proprio? La odio. Perché? è praticamente è una radio egocentrica che appena ci vede raccontare sulla sua vita, delle sue robe, che a noi non ce ne frega assolutamente niente. Cos'è che fa? Scusami, si mette a raccontare sulla sua vita? Sì, la sua vita, cosa fa, va, che va in palestra, cosa guarda la tele, cosa, tutte queste robe qua. E questo sarebbe anche il meno. Sì. A parte che non sta zitta due secondi, vabbè. La cosa assurda è che sta quasi 30 anni, si comporta come una bambina di 5 anni che si mette a ridere per la scura ingegnere e tutte queste cose qua. Ma scusa una cosa, ma tu ne hai mai parlato con la tua ragazza? O... Sì, lo sa. Ah, lo sa, perfetto. Però questa roba non riesce ad affrontarla. Cosa? Non riesce ad affrontarla lei questa roba con la sua amica? Ma lei dice che sono legate, però. Ma perché la questione, cioè, la questione io poi. Io la vedo come una persona vuota. Ma perché la questione poi è questa, no? Cioè, che gli amici non sono come i parenti che ce li hai e te li tieni. Gli amici vale cambiarli, no? Guarda, io ultimamente sto facendo questo. Cercando di fargli capire, con le buone, ma anche con le meno buone, che comunque una persona che ti va a fare anche delle figure da cioccolataio, diciamo. Ultimamente la situazione è un po' migliorata perché ci vediamo un po' meno, prima era più in mezzo. Senti, vuoi dire qualcosa a lei direttamente? Vabbè, ma guarda, hai già detto che la odi e quindi va bene così. Sì, ma esatto, non penso che stia ascoltando. Non è la radio. Meglio così. Il suo contesto interattivo. Ok, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, cosa ascolta? Ascolta la rete 105, questa qua, sicuro. Andiamo ancora con Roberto dalla provincia di Milano. Pronto? Ciao. Eccoti qua. Allora, a te almeno l'ho regalato un paio di cuffie sere. A te? A me l'ho regalato un pupazzetto di quelli che danno in omaggio l'autogrill da 2,50 euro. Vabbè, ma gliel'hai tirato dietro. Ma no, ho dovuto fare anche la foto di quello che diceva minchia, che figata. Senti, ma cos'è, la moglie, la fidanzata? Amici della moglie. Ma sono una coppia, quindi? Sì, una coppia. Perfetto. Purtroppo dobbiamo chiudere, caro mio Roberto. Vuoi dire direttamente qualcosa a loro? No, meglio di no. Meglio di no. Grazie mille, buona giornata. Ciao. Ultimo messaggio. Odio le cene trabocchetto di mia sorella. Franci, pizzetta tranquilla io e te stasera. Guarda, non si firma, per cui non so se Franci ha capito chi sei e se voglio fare una pizzetta tranquilla con te. Io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti oggi, purtroppo non abbiamo potuto sentire tutti, però vi ricordo soprattutto che Vendo Tutto è un programma che facciamo insieme a Laura Faggin, Tiziano Bonini e Alessandro Genovesi. Ringrazio Paolino Corleoni, che oggi è in regia e che non ha niente da dire agli amici di sua moglie. No, diciamo di no. Le cuffie sono visibili come al solito sul sito e sul profilo Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo invece una coppia di caschi, uno da uomo e uno da donna. Voi invece non smettete di ascoltare la musica, ma se avete cuffie che non utilizzate più, liberatevene, che alla fine anche le cuffie sono solo delle cuffie.